stare in ansia e soli in quei momenti, sentirsi vuoti e persi e non pensare. Si cresce spesso nei tormenti, la vita insegna presto e puoi volare. Avevi un giorno il tempo per sognare le immagini più strane dell'amore, sequenze di una vita a raccontare. Cos'è la gioia, cosa sia il dolore, sapori d'altri tempi, altri colori, che adesso sia diverso da una volta. Che cosa sia cambiato nei valori, vita in compravendita stravolta. Discorsi falsi per farci sbagliare, dati in pasto senza dignità, rubare il nostro tempo per sognare, oscurando il mondo e la realtà. Adesso è giunto il tempo per capire che la nostra vita in questo tempo, venuta al mondo un giorno e poi finire, non possiamo perderla nel vento. È venuto il tempo per cambiare, capire cosa sia la verità, scavare nei ricordi per trovare la nostra vita e poi la libertà, la nostra vita e poi la libertà, la nostra vita e poi la libertà.